Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 16 aprile 2015, gran successo del pomodoro biologico, più nutriente e curativo, dice la scienza. Nel paese della pizza la scienza è riuscita a sposare la tradizione e così il pomodoro biologico, che 3 anni fa microbiologi e medici dell'Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del CNR e dell'Università di Pisa avevano riconosciuto come più ricco di nutrienti e antiossidanti, è diventato il preferito su molte tavole. Le colture biologiche continuano infatti a diffondersi e la produzione di pomodori in particolare sta vivendo una crescita costante. A contribuire è stato anche lo studio pubblicato sul British Journal of Nutrition della Cambridge University Press, da cui è emerso che i pomodori bio, rispetto a quelli coltivati con altri metodi, contengono concentrazioni più elevate di calcio, 15%, potassio, 11%, fosforo, 60% e zinco, 28%. Fin qui la notizia del 16 aprile 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Cristiana Sbrana, docente all'Università di Pisa e ricercatrice all'IBBA CNR. Il nostro pomodoro, essendo coltivato appunto in maniera biologica, aveva la possibilità di associarsi con dei funghi benefici del suolo che normalmente hanno un effetto biofertilizzante nei confronti delle piante. Quindi le piante associate a questi funghi hanno un miglior contenuto minerale e di acqua e crescono meglio. E la loro produzione, in questo caso il frutto del pomodoro, aveva un contenuto di sali minerali, di calcio, di potassio, di fosforo più elevato rispetto al pomodoro invece che non si trovava in associazione con questi funghi e soprattutto aveva delle caratteristiche non solo migliori dal punto di vista nutrizionale ma nutraceutiche proprio, quindi erano presenti delle sostanze che avevano una valenza più curativa, diciamo, o preventiva perlomeno nei confronti delle malattie rispetto al pomodoro che invece non era associato con i funghi micorrigici. È un esperimento isolato oppure potete immaginare che anche su altri tipi di alimenti, di prodotti ortofrutticoli si possano ottenere risultati analoghi se non simili? Noi prima del pomodoro avevamo fatto prove di questo tipo sul carciofo e anche nel caso del carciofo avevamo visto questo aumento di sostanze ad attività antiossidante nella parte edule. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.